solidarietà. Nel mio animo però un amore io ce l'ho e nessuno me lo ruba. Sono complice di me, penso ancora a sé. L'ho perso, mi son fatto abbandonare. È morto la terra in fin di vita, voce di pioggia e fango su di me, la gente corre via. Almeno un lieto fine c'è. Nel mio cuore però sto pensando ancora a te, e che nessuno via ti porterà da me ancora. Solo complice di me, io nella farmi perdere anche da te. Io capace di star lì senza dire sì o no, un mendicante troppo stanco per amare non lo so. Da pezzente complice della mia libertà, senza voler rinunciare o fare.